tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Roberto Orazzi, regista del documentario Parlano le donne, in onda su Rai 3, mercoledì 25 novembre 2020 e poi a disposizione su Rai Play. Roberto, ben trovato. Buongiorno a te e a tutti. Un appuntamento importante nella giornata contro la violenza sulle donne. Raccontaci un po' di cosa parla questa storia. Questa storia è il risultato di un progetto presentato al Ministero delle Politiche Sociali, un'idea della produzione Anelli, l'idea Next Station. L'idea potremmo definire anche estremamente semplice, no? Cioè far incontrare due generazioni. Poi si è rivelata, a mio modo di vedere, diciamo, una grande idea, no? Cioè questi quattro studenti di quattro regioni diverse d'Italia incontrano quattro donne che hanno vissuto questa terribile esperienza, la violenza fisica e anche psicologica. E quindi è stato un percorso molto interessante e anche un po' faticoso, perché poi in realtà siamo stati anche bloccati proprio sul momento della partenza, siamo stati bloccati dal lockdown. Però poi dopo, per fortuna, quest'estate ci siamo rimessi in movimento e siamo riusciti ad arrivare alla realizzazione finale. Dico una grande esperienza perché effettivamente due generazioni che si confrontano proprio faccia a faccia, dove gli studenti chiedono, vogliono sapere della storia di questa donna e chiaramente di che cosa significa poi vivere un dramma del genere. È un risultato, a mio modo di vedere, estremamente efficace, perché si parlano le generazioni, si bypassa un pochino quello che è quel lato prodiginoso sulla descrizione degli atti di violenza e si cerca di capire, di indagare e di far raccontare cosa significa viverla quotidianamente e cioè portare alla luce il fatto che quando una donna vive un atto di violenza in realtà rimane incatenata alla violenza. E quindi non è così automatico dire benissimo è successo l'atto fisico, io domani me ne vado, non funziona così. Che impressioni ne hai ricavato ascoltando queste storie e interagendo con queste donne? Allora, innanzitutto, come sempre succede quando si affronta una forma documentaristica, quindi c'è cioè, storie vere, che ha un grande arricchimento di conoscenza e soprattutto ho incontrato quattro donne monumentali, ognuna a modo suo. Dico questo perché la loro esperienza drammatica e negativa in realtà l'hanno poi sublimata, ognuna di loro, creando associazioni, partecipando alla vita degli sportelli antiviolenza e quindi forniscono un contributo, direi, fondamentale a un che unisce, perché le donne che poi si rivolgono a questi luoghi si sentono credute, questa è una delle frasi che più ricorre nel documentario. Perché di fronte hanno delle donne che sanno esattamente cosa significa vivere quell'esperienza. E quindi da questo punto di vista l'esperienza è stata fortificante, no? Perché poi dopo sai, anche tutti noi uomini, comunque chi più che meno avrà anche avuto, no, dei momenti, non dico violenti, ma insomma dei momenti in cui poi certamente nel corso di una relazione di una donna è stato migliori. E devo dire che anche per me ci sono stati dei momenti di riflessione sulle dinamiche in cui noi ci rivolgiamo alle donne. E le giovani generazioni? Potrei dire in questo caso siamo messi bene, nel senso che questa idea così forse un po' troppo sbrigativa di pensare che i giovani non sono mai uguali a noi perché noi facevamo, noi pensavamo, in realtà io vedo una bella generazione. Quando dico bella dico con il limite dell'età, ma questo è assolutamente banale dirlo, però una generazione sicuramente attenta, una generazione anche già preparata, perché chiaramente hanno anche accesso a cose che noi non avevamo, non esistevano come informazione e via discorrendo. E soprattutto soprattutto che il fatto di poter partecipare attivamente a delle situazioni, a progetti come questo, e non solo, credo che gli dà degli strumenti estremamente importanti. Poi è chiaro, sai, la percentuale dipende anche molto dai contesti in cui si vive, dalle famiglie di appartenenza, però devo dire che abbiamo fatto parecchi provini, quindi parecchi incontri, no, per fare una scelta. E ti assicuro che la media degli studenti era veramente molto alta, molto interessante. Ci sarà un canale rivolto alle scuole? Sì, sicuramente. Adesso diciamo l'idea Next Station si occuperà della parte della distribuzione e quindi sicuramente partirà poi una distribuzione, quindi una possibile divisione più capillare, assolutamente attraverso le scuole, attraverso chiaramente anche l'aiuto degli istituti che hanno partecipato a questo progetto. E qui devo spendere una parola di ringraziamento nei confronti delle scuole, nei confronti dei dirigenti scolastici e dei professori che si occupano dei progetti, diciamo, alternativi. Devo dire che c'è stata una collaborazione incredibile, una grandissima disponibilità, visto anche il momento che vivevamo, sempre chiaramente nel rispetto delle regole. E questo è anche una cosa che io che va sottolineata, cioè questa grande forza, questa grande abnegazione, questo grande interesse dei professori mettono in questi progetti, chiaramente va sempre poi a favore dello studente, quindi questi strumenti che sono extrascolastici ma che poi in realtà rappresentano un grande strumento di crescita. Quindi io devo dire veramente un grazie a tutti. Parlano le donne, in onda mercoledì 25 novembre 2020 su Rai 3 e poi a disposizione su Rai Play, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Orazzi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, un saluto a me. Con Stefano Francia di Celle, direttore artistico della 38esima edizione del Torino Film Festival, online dal 20 al 28 novembre 2020. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie per questa opportunità di parlare del nostro festival. Per chi non lo conoscesse, intanto presentiamo il Torino Film Festival in generale, nella sua storia. Certo, il Torino Film Festival nasce come Festival Internazionale Cinema Giovani da da un'intuizione degli allievi di Gianni Rondolino, che come sanno molti è stato un po' il decano dei docenti di critica del cinema in tutta Italia, molti studenti avranno studiato il cinema manuale. Questi tre studenti, cioè Alberto Barbera, Roberto Turigliatto e Stefano Della Casa, hanno iniziato con lui un percorso di scoperta di cinema mondiale fatto da giovani, pensato per una distribuzione indipendente, quindi è stato da subito la culla del cinema indipendente internazionale in Italia. Questa vocazione non ha mai smesso di averla, anche quando poi si è passato il titolo più, diciamo, tradizionale Torino Film Festival. Questa storia del festival sono molto felice di poterla portare nella prima edizione da me firmata, perché ho lavorato molto in questo festival, lo conosco bene e penso che al di là di un necessario rinnovamento sulle forme di fruizione, sulle forme di condivisione, su tante cose che sono successe dalla nascita del festival ad oggi, però la base di essere un festival attento alla creatività giovanile è la forza vincente del nostro festival. Un'edizione online cosa prevede? Parto dall'aspetto, diciamo, psicologico-culturale, poi parliamo delle cose tecniche, ma prevede una solidarietà di 133 produttori e registi in tutto il mondo che, vista la situazione, vista l'impossibilità di andare in sala perché la pandemia non affligge purtroppo solo l'Italia ovviamente, hanno deciso di dare battesimo alle loro opere in Italia in un'edizione innovativa online che vuole essere promozione di cultura cinematografica, quindi non si parla di streaming indiscriminato, di forme di distribuzione a un video, ma di sala virtuale che vive sul web attraverso la piattaforma MyMovies e attraverso un palinsesto di eventi live che partono dalle 10 del mattino e arrivano fino all'ora di cena, alla Mole Antonelliana, dove continuamente avvengono eventi che che sono legate alla presentazione dei 133 film. Quindi un'edizione totalmente democratica, perché non abbiamo problemi di budget, di ospitalità, perché purtroppo non possiamo invitare nessuno, però sono tutti invitati e tutti coinvolti. Democratica anche perché non c'è una suddivisione, sai, nei festival è normale che questo accada, ma che a seconda degli orari in cui tu colli più un film è più o meno visibile. E invece anche questo non succede, perché, e qua mi addentro nelle informazioni tecniche, i nostri film vengono diffusi in un determinato giorno, quindi non so, sabato 21 abbiamo il film americano The Evening Hour, che viene diffuso alle 14 di sabato pomeriggio e resta fruibile per 48 ore. Quindi se sei entrato in quella sala, quindi se o perché hai pagato il biglietto o perché hai un carnet di biglietti o hai un abbonamento o sei un accreditato industry, perché sei produttore e distributore, puoi vedere quel film per 48 ore. Quindi è una forma psicologica anche che ricorda la sala, sono delle sale perché c'è un accesso limitato, quella sala possono entrare a seconda degli accordi con i distributori mediamente 1000 persone, poi ci sono delle piccole eccezioni, però in grosso sono 1000 persone guardano quel film e poi lo possono approfondire attraverso le conferenze stampa, gli incontri speciali e i contenuti che abbiamo nel palinsesto. Nel palinsesto poi trovano spazio anche delle iniziative speciali che sono le masterclass, tutte internazionali, con registi siriani, inglesi, iraniani, russi e anche americani, quindi diciamo un'opportunità per il festival di essere ancora più internazionale grazie alla disponibilità di registi internazionali a essere con noi col progetto delle masterclass. Poi una cosa molto bella per noi è che le sale, premendo dal desiderio di far vedere i film anche in sala, e quando sarà possibile la prima sala in Italia che proporrà una selezione dei nostri film delle sezioni competitive sarà il grandissimo nuovo Sacher di Nanni Moretti, che è stato direttore di festival per due gloriosi anni. Oltre alle masterclass ci sarà la possibilità di interagire con autori e autrici? L'interazione non è così scontata, cioè, gli incontri non hanno la possibilità tecnica di interagire proprio direttamente, ma c'è la possibilità attraverso i social di fare delle domande innanzitutto a noi, perché abbiamo tutti i giorni una cosiddetta social room in cui io personalmente e altri curatori del festival interagiamo con il pubblico. E poi ci sono delle modalità per addetti ai lavori con i giornalisti e accreditati per poter dialogare con le personalità coinvolte. I riferimenti web chiaramente è il sito internet del Torino Film Festival. Il sito del festival www.torinofilmfestival.org è un po' la base di partenza per andare sulla piattaforma MyMovie, dove ci sono i film, e quindi accedere direttamente alla fruizione del film, oppure sulle altre piattaforme che utilizziamo, tra YouTube, Facebook e altre modalità social. Però diciamo il sito è stato molto innovato in questi mesi e il punto di partenza di tutto. 38esima edizione del Torino Film Festival online su MyMovies dal 20 al 28 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Francia di Celle. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. A prestissimo, grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Con Porpora Marcasciano, co-direttrice di Divergenti, Festival Internazionale di Cinema Trans, su docacasa.it dal 26 al 28 novembre 2020. Porpora, ben trovata. Buonasera a tutti, a tutte soprattutto. Ci racconti? Vi racconto un po' il travaglio del festival di quest'anno. Eh certo. Veramente, per non ritornare a dire le stesse cose che dicono tutti rispetto all'isolamento, dove il festival è stato pensato e veramente per la prima volta organizzato già a gennaio, solo che poi non avevamo previsto il blocco di tutto e doveva andare in diretta a maggio, ricco di eventi collaterali, di mostre, presentazioni di libri, per poi chiuso tutto online. Quindi ci siamo dovuti adattare, insomma, a queste nuove forme. Per me, che ero abituata all'evento dal vivo con tutti i vari colpi di scena, novità e tutto, questo insomma un po' ci ho messo tempo a digerirlo, ma ci ho detto, ci siamo riusciti, ecco, perché abbiamo lo spirito grosso e forte di adattamento. Chiaramente abbiamo dovuto un po' eliminare diversi di quelli che erano gli eventi culturali collaterali al festival. Però abbiamo intanto pensato la traccia di quest'anno, la dedica che è alle migrazioni trans, e questo lo avevamo in mente già da un po' di tempo, solo che negli ultimi 2 anni avevamo sospeso divergenti per problemi proprio tecnici organizzativi interni al NIT, non ce la facevamo, quindi ritorniamo quest'anno con appunto il titolo Le migrazioni trans. Su questo, capito, abbiamo fatto una scelta particolare rispetto ai film, alle proiezioni, e rispetto a questo abbiamo anche organizzato un convegno che si svolgerà lungo tutti e 3 i giorni, sempre online, del festival su appunto le migrazioni trans, con un HCR, Amnesty International e tutti i soggetti e le persone che vivono in prima persona la questione, il problema della migrazione, dei richiedenti asilo, e insomma è questo, ecco, anche per mettere in ritardo quello che fa inizio normalmente, i servizi che offre. Ecco, 10ª edizione, su quali presupposti era nato e come si è sviluppato nel tempo il festival? Il festival è nato nel lontano 2008 e da un'idea che io personalmente avevo e che mi intrigava da molto tempo, ma non avevo la chiarezza e la certezza di continuare, che fosse arrivata alla 10ª edizione. E all'inizio avevo un sostegno molto molto forte in Luchi Mazza, che è stata per anni la direttrice artistica, è una grande direttrice artistica, che ha portato divergenti a livelli inimmaginabili, che però ci ha lasciati e quindi ci ha creato uno stando, ecco. Quello che fa divergenti è intanto interpretare i tempi, perché non può essere uguale a se stesso, non può essere uguale all'edizione precedente, ma deve sempre leggere la realtà, interpretarla e restituire dei messaggi. Questo rispetto alla situazione, all'esperienza trans, non è facile, non è neanche scontato, perché cambia in continuazione il vocabolario, cambiano in continuazione i punti di vista e soprattutto le questioni annesse e connesse. Giusto per citarne una così fuori programma, che però non abbiamo inserito, e meno male, il grosso scatto che ci vede coinvolti con le femministe fondamentaliste ed essenzialiste, che è una cosa molto brutta, cruda, accesa e devo dire pure un po' aggressiva e violenta. Ecco, però per fortuna non l'abbiamo inserito. Era giusto per citare uno dei tanti problemi che ci riguardano e che ogni anno si affacciano all'orizzonte. Ci facciamo bastare quelli che già abbiamo di problemi e comunque anche quelli molto pratici dell'organizzazione di un festival del genere, perché per un'associazione che vive soprattutto di volontariato non è scontato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. E il festival è realizzato e realizzabile grazie alla sensibilità e all'appoggio di alcuni soggetti, anche no, soprattutto istituzionali, come l'assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna e l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Bologna e la Cineteca di Bologna, che in questo non solo ci ha sostenuti sempre, ma attraverso il suo direttore Gianluca Farinelli ci ha sempre invogliati a dire: voi dovete fare il festival divergenti. E quindi sentendo queste vicinanze, questi solleciti e anche questi appoggi, perché per quanto riguarda la regione c'è stato un appoggio economico, giustamente e chiaramente, noi riusciamo a proseguire, ecco. Quante saranno le opere presentate e poi ci saranno occasioni di interazione con autori e autrici? Sicuramente sì, autori e autrici non saranno tutti presenti, chiaramente, sicuramente sì, anche rispetto alla giuria, perché quest'anno non ci sarà il premio del pubblico, perché chiaramente diventa difficile, quasi impossibile farlo a distanza, però c'è una giuria scelta di esperte, diciamo. Sono Lina Pallotta, fotografa, reporter, Giorgina P, attrice, performer, regista di teatro, e Jonathan Bach, giornalista. Okay. La madrina è Maria Calderoni, Motus, quindi da quel punto di vista ci siamo guarniti, ecco, di rappresentanza planetaria. Le opere in tutto sono 12 per l'esercizio, più una che si è aggiunta all'ultimo momento e noi la facciamo rientrare anche nonostante un fuori programma, perché non c'è stato tempo per inserirlo, che è questo documentario sull'archivio trans storico argentino, di quattro attiviste trans che, reduci dalla dittatura di Argentina, quindi andate in esilio e poi hanno costruito questo archivio, che è stato tratto il film appunto Archivio Trans, e andando sulla pagina del festival o su quella del MIT trovano tutte le informazioni che si cercano, ecco. Ecco, in chiusura diamo tutti i riferimenti web? Doccacasa.it è la piattaforma, sì. Abbiamo il festival, le dirette saranno attraverso Zoom sulla pagina Facebook del MIT e sulla pagina Facebook di Divergenti. Quindi i vari dibattiti e presentazioni saranno attraverso quello. Decima edizione di Divergenti, Festival Internazionale di Cinema Trans, doccacasa.it dal 26 al 28 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Porpora Marcasciano. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a voi tutte e soprattutto a Radio Onda Rossa, che sempre mi avvicina e sempre sarà mia. Con Fabrizio Ferrari, direttore della 19ª edizione del Rome Independent Film Festival su MyMovies, mymovies.it, dal 26 novembre al 4 dicembre 2020. Fabrizio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie. Per chi non conoscesse, intanto parliamo del RIF. Cos'è? Il RIF è un festival di cinema internazionale rivolto a film indipendenti che si svolge ormai da 19 anni nella nostra capitale, e ogni anno insomma presentiamo in 7 giorni circa 100 titoli tra cortometraggi, lungometraggi, documentari, film d'animazione, film sperimentali, quindi ecco tutti in anteprima italiana, anche diverse anteprime europee o mondiali. Tantissimi sono i registi che vengono poi a Roma, sia italiani che stranieri, a presentare il loro film, e quindi ecco, diciamo una settimana in cui si può respirare veramente aria di festival cinematografici. E come sarà questa edizione online? Quest'anno si respira da casa questa aria di festival, purtroppo. L'edizione sarà tutta su MyMovies, abbiamo finito di consegnare oggi tutti i materiali, quindi saranno tutti film in altissima risoluzione, e per molti film, specialmente per gli italiani e per i lungometraggi, ci sarà anche un saluto e la possibilità, ecco, di ascoltare il regista. Diversi registi hanno preparato dei saluti e delle varie introduzioni al loro film che saranno poi presentati sul server di MyMovie. Quanti saranno nel complesso i film? Allora, quest'anno sono 88 in totale, 85 in concorso, abbiamo 21 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e il resto sono tutte anteprime italiane. E abbiamo anche di incontri e masterclass e focus, per esempio con Lapo Gresleri, con Valerio Pispuri e con Fabrizio Lucci. E poi abbiamo una giornata che è dedicata al cinema LGBTQ. Come sarà strutturato online? Allora, abbiamo cercato, per rendere il festival insomma e le persone che partecipano, i nostri ascoltatori, gli amici del festival che ormai lo seguono da diverso tempo, nonché anche i registi stessi, abbiamo cercato di impostarlo un po' come una sala virtuale, quindi saremmo dovuti stare alla Cinemaquila, quindi la sala sarà chiamata Cinemaquila, gli incontri che abbiamo pensato di organizzarli presso le biblioteche di Roma o presso lo spazio Vigil, quindi le sale saranno chiamate anche loro con gli stessi nomi, e abbiamo cercato anche di dare una sorta di programma, cioè con i giorni e gli orari, però diciamo che i film sono al 99% tutti visibili dal 27 novembre al 3 dicembre, quindi senza interruzione, senza orari, senza far fede diciamo al programma che troviamo sul sito, che è il PDF, insomma. Questi oltre 80 film, che impressione generale ci puoi dire? Quest'anno abbiamo voluto selezionare opere molto contemporanee, come sempre, diciamo, però ci siamo rivolti un po' più a quei video sperimentali, video un po' post-Covid, post-atomici. Non abbiamo selezionato nessun film sul Covid, però ci sono arrivati diversi progetti che parlano di pandemie, che parlano di situazioni post-apocalittiche, e quindi abbiamo pensato bene di volerle inserire. Film che sono stati girati addirittura nei primi mesi dell'anno, quindi dove ancora non c'era questa pandemia, non è ancora fermata. Però ecco, sono stati fatti alcuni lavori diciamo molto interessanti, molto belli, dalla Germania o dalla Croazia, un film francese, per esempio un lungometraggio, un'opera prima di un regista che partecipò al RIF già 12 anni fa con il suo primo cortometraggio, Dominique Leynard, è una coproduzione tra Francia e Belgio, e questa è un'anteprima europea con il suo film che si intitola Fires in the Dark, e tratta una storia in un villaggio, pensa, tra mare e montagna nel XVII secolo, quindi tutto diciamo in costume, e i suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono, però diciamo che la sopravvivenza li impegna ad andare a, come dire, a derubare, no? A trafugare i tesori di quelle barche che si andavano incagliando in questo lembo di mare, no? E un giorno in una di queste barche, insomma, c'era naufragata, tutto l'equipaggio era morto per una pandemia, e quindi anche le stesse persone del villaggio poi si trovano ad affrontare questa pandemia. Una storia molto bella, forse vera, chi lo sa, bisogna vedere bene la sua sinossi, molto interessante, e come ecco, ho detto, un'opera prima, una coproduzione Francia-Belgio. Ci lasci tutti i riferimenti per i dettagli? Sul sito del RIF, rif.it, possiamo trovare tutto il programma, le schede dei film, con le sinossi, le biografie, i trailers, le fotografie di scena, i poster, e su mymovies.it dal 26 partiamo con un incontro molto interessante che si intitola SPQL, di un progetto di poesia ideato da Francesco Cabras con alcuni versi inediti in romanesco di Marco Lodoli, dove hanno partecipato tantissimi artisti, tra cui Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Enrico Montesano, Yarkor, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Pino Marino, per citarne alcuni, e quindi vi do appuntamento su My Movies da questo giovedì 26 novembre dalle ore 21. E poi proseguiamo fino al 4 dicembre con una carrellata di 85 film, tutti in anteprima italiana. 19esima edizione del Roma Independent Film Festival, un saluto e un ringraziamento al direttore Fabrizio Ferrari. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo, grazie a voi. Ciao, alla prossima. Con Cristina Piccino, una delle curatrici della 40esima edizione del Filmmaker Festival, dal 27 novembre al 6 dicembre 2020, in streaming su My Movies. Cristina, ben trovata. Grazie, grazie Federico, ben trovato a te e a tutti voi. Un'edizione tonda, molto particolare. Sì, degli strani primi 40 anni, in un anno di pandemia che insomma sembra avere messo veramente a rischio, quantomeno in un angolo, tutto quello che è lo spettacolo dal vivo, la sala cinematografica, i teatri, la musica, i concerti e soprattutto tutto quello che significa in questo senso fare un festival, cioè la possibilità di incontrarsi, modi di scambiarsi opinioni, pareri, magari si vedono nascere amicizie o così davanti ai film, gli scambi con gli autori, le conversazioni in sala, insomma tutto questo purtroppo in questo momento di pandemia, con le sale che sono rimaste chiuse dopo la prima data che era stata data del 24 novembre come chiusura, ha costretto noi di filmmaker, questo 40° anniversario, come tanti altri festival, alla scelta dello streaming, e chiaramente noi speriamo comunque nei prossimi mesi, quando si riaprirà, di fare degli appuntamenti in sala e di poter portare almeno qualcosa dei nostri autori, della nostra selezione di quest'anno, anche in sala. Quante sono le opere selezionate e come sarà strutturato online? La selezione comprende oltre 60 titoli ed è strutturata in concorso internazionale con 10 titoli tutti in anteprima, nelle prospettive che sono dedicate ai giovani registi italiani e sono per noi un laboratorio di scoperta e di attenzione molto importante a quelli che sono poi i talenti del futuro, che è un po' una delle caratteristiche che Filmmaker si porta dietro dalla sua nascita, perché in fondo qui ci sono allenati, è stata una palestra per tanti registi che poi sono diventati dei riferimenti importanti nel cinema italiano, dagli anni 80 di Bruno Piconi, passando per Michelangelo Frammartino e Alina Marazzi e tanti altri. Poi ci sarà una sezione, come sempre, dedicata al cinema sperimentale e in particolare al cinema sperimentale austriaco, che si chiama Fuori Formato. Ci sarà una sezione che noi amiamo molto, Moderns, dove appunto ritroviamo sia film risorti dal passato e rimasti qualche ragione inediti, come quest'anno My Big Asset Mother di Tecla Taidelli con Abel Ferrara, che è un reading che Tecla ha girato in un bar di New York, dove Ferrara interpreta Bukowski leggendo un suo racconto degli anni 60. Oppure ci sono quei registi sempre in Moderns come Mauro Santini o Riccardo Palladino, che lavorano con la pellicola, o Francesco Ballo, che è un nostro grande amico e che ogni anno prepara per noi, scovando enormi materiali e archivi che ha collezionato e che continua a produrre negli anni qualche cosa. E poi abbiamo anche un bel film che si chiama Apocastasi di Daniele Maggioni, anche lui un nome molto importante della scena milanese dagli anni 80 in poi, produttore di Marina Spada o di Silvio Soldini, regista, che torna dietro la macchina da presa utilizzando ugualmente degli archivi girati durante i 7 anni di lavoro in Sardegna, dove attualmente vive. Abbiamo poi molti titoli fuori concorso da grandi maestri come Wiseman, che è stato nostro regista, a cui per la prima volta Filmmaker in Italia ha dedicato un'intera retrospettiva. Abbiamo Till the Autumn's Blue di Jean Zanke, che è un film molto bello, una sorta di storia della Cina attraverso la voce di alcuni poeti cinesi e la voce dello stesso Jean Zanke attraverso le sue immagini. E poi abbiamo, sempre fuori concorso, un bel lavoro di Andrea Caccia insieme agli studenti dell'Istituto Rosa Luxemburg, ed è un tentativo di raccontare la periferia milanese che diventa appunto un bellissimo racconto di adolescenza. Quest'anno per i 40 anni avevamo pensato a 2 nuove sezioni. La prima si chiama Teatro Sconfinato ed è in qualche modo un po' il proseguimento di un lavoro che abbiamo fatto quest'estate al Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, che festeggiava invece i 50 anni diretto dai Motus, con un progetto intitolato dai 2 curatori, cioè Luca Mosso e Matteo Marelli, Transfer Camera, in omaggio ad Alberto Grinzi, a cui abbiamo dedicato appunto qualche anno fa un'altra delle nostre retrospettive. L'idea era mettere insieme, far incontrare nello spazio delle immagini alcuni gruppi con alcuni giovani cineasti, e cioè Leandro Picarella, Riccardo Giacconi, Maria Giovanna Cicciari, Enrico Maisto e Chiara Caterina. Il risultato di questo progetto è un film collettivo che presenteremo uno degli ultimi giorni del festival, ed è soprattutto il desiderio di continuare a approfondire questo legame, questa relazione, non so se pericolosa, ma comunque bella e proficua, tra diverse forme di linguaggio espressivo, e in questa sezione Teatro Sconfinato, appunto un teatro che esce fuori dai propri confini e che si incontra in altre forme, tanto più oggi dove appunto anche il teatro purtroppo è costretto ad assumere la forma digitale. E abbiamo 2 film, uno in di Marco Martinelli del Teatro delle Alpe, che si chiama Er, come Ermanna Montanari, che del Teatro delle Alpe è la cofondatrice, nonché compagna di Marco da sempre, ed è una sorta di racconto di storia del Teatro delle Alpe attraverso il volto di Ermanna. È un altro corto di Raffaele Rezzonico, che invece filma la danza con un titolo A Time to Mend, abbastanza enigmatico, come appunto enigmatico il rapporto fra queste immagini. C'è poi una sezione che è diventata molto molto importante per noi, a cui teniamo molto, che si chiama Corrispondenze. Questa sezione tra l'altro è free, è gratuita, sulla piattaforma di MyMovies, ed è nasce da un'idea a cui abbiamo lavorato durante il lockdown. Nel senso, volevamo sentirci un po' vicini a tutta la nostra comunità di artisti, di spettatori, di amici, e quindi l'idea era far corrispondere alcuni registi con altri che, sulla base di visioni o di incontri avvenuti negli anni durante il festival. Dopo primavera tutto si è riaperto, naturalmente le corrispondenze erano un po' più complicate perché diciamo gli autori, ciascuno è tornato un po' alle attività che aveva lasciato obbligatoriamente, cioè che forzatamente aveva interrotto, e quindi però tutti quanti hanno voluto continuare a mandarci dei regali, dei piccoli film che sono dei doni, e questa sezione è diventata una sorta di work in progress dove continueranno ad arrivare altri doni, proprio come per attestare quest'idea di comunità, di rapporto, di relazione che è e che deve essere sempre un festival. Abbiamo tantissime cose, due corrispondenze che seguono un po' l'idea del dialogo a distanza, una fra Luis Fulvio e Franco Maresco e l'altra fra Gaia Giani e la cineasta americana Liane Smith. Milano, Los Angeles la seconda, Roma, Palermo la prima. E poi regali magnifici da Carlo Interman, Michelangelo Frammartino, Rita Casbia, Diego Marcon, Nicole Rubini, Enrico Maisto, Ben Rivers, Alex Gerbaulet, Nicola Klotz, Elisabeth Perceval, Lech Kowalski e tantissimi altri. Nel salutarci ci dai nuovamente i riferimenti web per tutte le informazioni? Tutto è sulla pagina di mymovies.it, l'abbonamento completo per tutti questi film è 9,90 euro. Trovate poi tutte le comunicazioni sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, Twitter. E volevo anche dire che ogni giorno alle 7 ci troverete in live streaming, alcuni di noi programmatori e selezionatori chiacchiereremo con i registi, per ora a distanza, e poi però appunto vogliamo comunque esserci, poi speriamo, come ho già detto, di ritrovarci in presenza. Grazie a tutti. 40ª edizione del Filmmaker Festival dal 27 novembre al 6 dicembre 2020, in streaming su MyMovies. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Piccino. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie Federico, grazie a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.